Il semaforo, scatenate l'inferno, prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pallone per Kalinic, Federico Bernardeschi, 2-0 in 10 la Fiorentina, ancora Bernardeschi. Ho già fatto due gol, ha partecipato in tutte le due fasi, capisci sempre di più, meglio c'è gli spazi per occupare con palla e senza palla. È un ragazzo dove dobbiamo prendere l'esempio, per questo sono molto contento per lui. Ma la posizione di Djordjevic è regolare, che arriva il gol del 3-1 al terzo minuto di recupero. Che sia stato costruttivo sicuramente sì, credo che però se siamo un gruppo responsabile, un gruppo che vuole fare bene, che può fare bene, perché io credo che ne abbiamo i valori, sia riduttivo pensare che sia stato due giorni di ritiro a farci migliorare così tanto. La Val di Fiori, palla dentro per Callejo, prende Kirikesh! Vlad Kirikesh porta il Napoli in vantaggio, la zampata del rumeno, primo gol col Napoli, 1-0. Primo gol col Napoli. È una partita difficile a livello mentale perché potevamo andare incontro a un crollo delle motivazioni, visto che eravamo già qualificati, visto che giocavamo in uno stadio deserto, quindi c'erano grandi rischi. Buon pomeriggio a tutti, oggi siamo in un luogo, una delle nostre esterne privilegiate, rappresentanti, cerchi agendi. Forumagenti.it. Come va? Benissimo, siamo qui. L'Europa League ci regala emozioni, eh? Beh, insomma, alla faccia di chi dice che il calcio italiano è depresso. Napoli non riesce a perdere nemmeno se ci prova, facendo ampio turnover, e vince senza subire gol anche a Bruges. L'Euro Lazio, che in campionato va in ritiro, esatto, gol chiacchierato, eccetera, invece vola in Europa, claro, battendo i vice campioni di questa manifestazione, il Dnipro. La Fiorentina, beh, è quasi fatta, basta un pareggio col Belenenses, sì, non il Belenenses, è la squadra di Belen, non Belen, la squadra di Belen, non Belen, l'hai detta. Sì, è la squadra di Belen, del la squadra per cui ti fa Sobborgo Belen. No, non lo so se potrebbe rifarla, visto che ha lo stesso nome. Sobborgo a sud di Lisbona, un posto straordinario, c'è il Pastéis do Belen. Sai cos'è il Pastéis do Belen? Non lo so, però so chi è Belen. È una, no, sapete cos'è il Pastéis do Belen? C'è un volontario. Noi abbiamo un'ampia platea, è un dolce vicino al monastero di Geronimus. Io direi che poi facciamo girare anche un microfono. È chiaro. Facciamo Ma girare è un microfono per la platea qui davanti. Ma voi siete agenti, rappresentanti? Che siete? Agenti. Sapete che il 70% del PIL del paese è legato agli agenti? Avete sentito cuore e denari? Siete pronti? Siete all'altezza della sfida del paese? Direi di sì. Siete pronti? Siete adesso già caldi? Non c'è, chiaramente in radio non si vedono le facce, ma sono facce, gente pronta. Tu sei 70... il più grande telecronista do mondo, puoi descriverle, cioè fa la telecronaca. C'è straordinaria eccitazione, ci sono gli occhi della tigre di coloro che sanno che attraverso il loro lavoro, il loro contributo, anche la loro capacità di vendita, potranno costruire un paese migliore, una società migliore. Super spot! No, Super Spot aspetta. Ci stava bene, ci stava sempre bene. Ci stava bene, ma abbiamo il traffico fra 3 minuti. Eccezionale! Fammi finire col discorso della Fiorentina con qualche rimpianto a Basilea, perché sta vincendo 2-0 nonostante l'inferiorità numerica, Super Bernardeschi, eccetera. pareggio 2-2, però è quasi fatta anche in questo caso, quindi diciamo 3-3. Sì, sì, ma io ti ho detto in sprezzo alla scaramanzia, due vanno avanti in Champions, e lo ribadisco, a Roma facessero gli scongiuri, ho capito, ma come dice Amendola non può finire così, dai, non vedo uno scenario diverso, e 3 vanno avanti in Europa League con sprezzo del pericolo. Adesso la Lazio ieri si è qualificata, il Napoli è già qualificato, penso che anche la Fiorentina non avrà problemi, io penso che andremo avanti. Ascolta, allora ai depressi che dicono dopo l'1-6 di Barcellona e il calcio italiano è questo: abbiamo avuto la finalista in Champions League, le due semifinaliste in Europa League l'anno scorso, adesso possiamo portarla avanti tutte, come dici tu, quindi cosa diciamo allora, signori, 800240024 se vogliono chiamare? Che purtroppo, per fortuna, Barcellona, che è una città magnifica, non è in Italia, e quindi Barcellona non è italiano, ma per il resto siamo competitivi. Ribadisco, insomma, la Juve, per me la favorita del campionato inglese è il Manchester City, a meno di sorprese, cioè diciamo la squadra quest'anno col budget più forte è il Manchester City. Sti cazzi. Puoi dire così? Ah, non posso. Sei in radio. Ormai l'ho detto. A parte che questa cosa. No, ma se questa è la favorita del campionato inglese, voglio dire, te li regalo. A parte che c'è quel discorso. L'anno scorso il campionato inglese non ha portato. Meco, sai che è diverso a Roma e a Milano, no? Che voi milanesi, diciamo, voi lombardi, dite. Se noi siamo depressi, la favorita del campionato inglese è il Manchester City, che la Juventus ha battuto due volte l'anno scorso, sono finite fuori tutte quante insieme in coro, siamo tonici prima della primavera. Allora il Napoli, campionato inglese è scarso oggi delle squadre dell'Europa League è, numeri alla mano, la migliore. Poi chiaramente, come tutte le competizioni di Coppa, i conti si fanno alla fine, si riazzera tutto da febbraio in poi, ma insomma, se dobbiamo valutare le 48 squadre come fosse un campionato, le 48 squadre di questa Europa League, al posto numero 1 per distacco, 17 gol fatti, un gol subito, 5 partite e 5 vittorie, c'è il Napoli. Poi se volete ragioniamo su chi può arrivare secondo, ma in fuga, quindi io penso che siamo in crescita. Poi è ovvio che appunto Messi non ce l'abbiamo, Cristiano Ronaldo nemmeno, però stiamo crescendo, e anche dal punto di vista strutturale, infrastrutturale, mi sembra che cominciamo a muovere i primi passi, cioè al di là del gigantesco, strepitoso mondo dell'Inghilterra, che è un sistema che poi adesso sta faticando, mondo dell'Inghilterra, dal punto di vista tecnico, ripeto, sta anche faticando, sì, ok, però da un punto di vista, diciamo, di business, ma marketing, mi dicono, nello specchio del campionato che fate, ma non è vero, sono un palle. Sì, sì, adesso non volevo fare una battaglia pro inglesi, voglio dirti che al di là, allora, se guardiamo come infrastrutture, l'Inghilterra è avanti a tutti, punto, come contratti televisivi, poi ci siamo noi, meglio degli spagnoli, certo. E dal punto di vista tecnico c'è, cioè, la realtà del Barcellona, sicuramente il Real Madrid ha dei valori di punta di quel tipo, ma insomma la Juve è lì, la Juve l'ha dimostrato, è arrivata in finale l'anno scorso e adesso è già passata, dopo quindi 10 stop anni, alla depressione, stop alla depressione. Ma c'è WhatsApp oggi? No, no, hanno tolto WhatsApp. Ha levato WhatsApp. Un uomo distrutto. Ieri sera c'è stato l'esordio in una TV napoletana di De Luca, sai, andalo benissimo. Però in redazione, noi invece siamo a Forum Agenti. Giovanni. C'è Giovanni Melchiori qui con noi. Ci fermiamo un attimo per il traffico che c'è sempre. Traffico. Poi torniamo. 800240024 per depressi e non. Non ho nessuna idea dell'Inter. L'ho vista pochissimo, da domattina comincerò a studiarla. L'unica cosa che mi interessa in questo momento è andare a cena, perché ho molta fame. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta. Tutti convocati. Dunque torniamo oggi in diretta da Forum Agenti, la vecchia fiera campionaria di Milano, rappresentanti. Ma noi vogliamo il tutto esaurito qui in platea, dunque fai in modo di convocare qualcuno. Sì, venite tutti, che padiglione è questo? Che possiamo fare? Venite, seguite la voce, voi lì in fondo siete pronti, siete tonici, tanto ormai quello che è l'ora di pranzo, no? E poi il momento migliore per fare i contatti. A Milano il pranzo è finito. Ah, giusto. E io il fuso spagnolo. Allora, Claudio da Roma è già in linea, ma io voglio farvi sentire. Sarà un weekend di incroci, no? Amorosi, sì, o non amorosi. c'è Mihajlovic che riceve la Sampdoria, prima volta da ex, volendo c'è Dybala che torna a Palermo con Zamparini che gli vuole sempre un gran bene. Allora, ha parlato ieri Ferrero. Non è una notizia che abbia parlato, sentiamo cosa che ha detto. Sentiamolo. Ma io penso che Sinisa, io li voglio molto bene a Sinisa, ma gli allenatori sono come le mogli, no? Sinisa ha trovato un'altra moglie e mi ha abbandonato, però io sono un uomo fortunato perché ho trovato Montella, il migliore del mondo. Ciao Sinisa, vinca il migliore. Ecco, così Ferrero. Mihajlovic ha risposto però, Com'è questa nuova moglie dopo questi primi mesi in cui è qui? È un po' più problematica di come se l'aspettava? Ma come tutte belle mogli, no? Sono più capricciose di quelle meno belle, no? Beh, non sempre incontrare l'ex moglie è un grande piacere, posso. Non sempre capita. Domani ci sarà questo incrocio di famiglia allargata. Tutte e due hanno bisogno di punti, quindi tutte e due chiedono alimenti. Al di là del fatto che chiaramente c'è più pressione su Mihajlovic per ovvi motivi, però insomma anche Montella ha iniziato con una sconfitta, il fatto di aver iniziato con una sconfitta comunque non è neanche fortunatissimo dal punto di vista del calendario, perché ha due partite in trasferta per cominciare il suo percorso. La prima l'ha persa contro l'Udinese, che non è esattamente il Real Madrid, quindi è ovvio che c'è un po' di pressione anche sulla Samp, però quello che ne ha di più certamente è Mihajlovic. Cambiato moglie? Grande Ferrero, grande. Claudio Roma, buongiorno. 800 24 0024. Claudio Roma dove? Che quartiere? Allora parliamo da Collatino. Grande Collatino. Diciamo allora, a chi non è di Roma, dov'è il Collatino? Diciamo subito che la Sampdoria con un presidente così vincerà niente. Nessuna garanzia. Subito ottimismo blu cerchiato. Sì. Allora, io sono di fede laziale, però sono qui a fare da difensore alla Roma. Non è possibile. Claudio, mi perdoni, questo non è possibile per ragioni naturali. Come fa un laziale a fare? Vabbè, sentiamo, ma non è, argomentiamo, non è vada, dica. Ritorno, non faccia il Gasparri, che non fa parlare le persone. Esatto. Allora, il discorso è questo: la Roma ha fatto benissimo al terzo gol, è inutile star spendere energie su una partita persa. O la perdi 6-1, 1-0, non cambia nulla. Per me è qualificata, la squadra era al 50% perché mancano 3-4 giocatori di grande valore, e meglio di quello non si poteva fare. Adesso aspettiamo la vittoria con la squadra che ha pareggiato l'altra sera, e la Roma è qualificata col minimo sforzo, così si può ancora dedicare sia al campionato che alla Coppa Campione. Della Lazio non dico nulla, perché purtroppo che devo dire, aspettiamo. Ha battuto il Dnipro, si è qualificato in Europa League, in campionato vediamo, però non quanto a ieri non mi sembra un cattivo risultato. Dubito di sentire cosa la Lazio, posso dire. No, non è gufo, sta dicendo una cosa giusta, che è vera. No, non che è vero che è uguale perdere 1-0, 2-0, 6-1. Allora, che l'abbiamo detto che in questi due giorni lungamente, che la Roma sia incappata in una figuraccia, non ci sono dubbi, che fosse l'unica cosa alla luce del risultato di Borisov che non doveva succedere, anche, cioè che era già stata trionfale la giornata, e stante il fatto che difficilmente puoi battere il Barcellona, il pareggio sappiamo che valeva come la sconfitta, quindi alla fine l'unica cosa che non bisognava fare era fare uno scandalo, fare un casino. La Roma è riuscita a farlo, ovviamente merito anche del Barcellona, quindi il giudizio è assolutamente negativo sulla serata di martedì. Detto questo, però, insomma, che la Roma abbia delle possibilità di qualificarsi, questo è oggettivo. Secondo me è enorme, cioè questo, se la Roma perde in casa col Bate, giustamente è giusto che vada fuori. È giusto che vada fuori. Io penso invece che la Roma possa, io non penso che ci sarà un impatto psicologico negativo. Io penso che la partita di Barcellona sia un ulteriore indizio del fatto che la Roma è una macchina potenzialmente molto molto forte, ma ancora clamorosamente imperfetta, che può incappare in alcune serate non positive. Ma io sono convinto che la Juve, che ripeto, non so se sia più forte della Roma, però così non avrebbe perso. No, certamente così non avrebbe perso. Resto convinto del fatto che non è vero che perdere 1-0, 6-1 sia la stessa cosa. Credo che ci sarà un impatto emotivo e credo che siano ore difficili a Roma. Batti l'Atalanta e hai batti, cioè, l'Atalanta, batti il Bate Borisov, devi battere tutte e due. Vabbè, quindi, ragazzi, dai, però guardala anche dall'altra parte, cioè se mi dici sapevo il risultato delle altre due, cioè di Bayer Leverkusen, mi era favorevole, erano anche condizioni emotive perfette per giocare una partita decente, no? Sì, ma la partita decente non significa giocare con la difesa a metà campo, appunto, questo è il problema. Io penso veramente che ci sia stata una debacle totale dal punto di vista dei giocatori e dal punto di vista dell'allenatore. E credo che non sia sano l'atteggiamento che ha avuto García a fine partita, cioè un atteggiamento quasi di autoassoluzione, come se il Barcellona fosse ingiocabile. Vabbè, allora che vogliamo fare? Cioè c'è modo e modo di perdere col Barcellona, e secondo me la Roma ha scelto tra virgolette, ha trovato una maniera veramente pessima per perdere col Barcellona. Chiaro. Detto questo, io non penso ci saranno diciamo risultanze o effetti negativi, penso che la squadra abbia dei problemi. Penso che sia più grave il pareggio di Bologna quando sei sul 2-1 con Torosidis che fa quello che ha fatto, cioè credo che Rudiger non dia garanzie. Sono un sacco di segnali di segnali sullo stato di salute non solo fisica ma anche psicologica della Roma. Riccardo, buongiorno. Catania, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei, dica. Io volevo intervenire sul della Champions. A mio avviso il vero divario è con le tre super squadre nelle quali aggiungo il Bayern. In Europa League francamente stanno andando benissimo, le due squadre di mezzo stanno facendo il campionato molto spettacolare, probabilmente anche perché l'Europa League oggi sono meno sloppate. Diciamo la verità, nel passato le squadre italiane l'Europa League la vedevano come una perdita di tempo. Dall'anno scorso qualcosa è cambiato. Resta il rimpianto della Juventus che aveva l'anno prima una finale in casa. Secondo me è stato un peccato capitale quello della Juventus. Secondo me sono vere un po' le due cose, cioè secondo me siamo in lieve recupero, in lieve ma sostanziale recupero dal punto di vista della nostra qualità del calcio, quindi secondo me siamo meglio di 2-3 anni fa, però soprattutto per quanto riguarda l'Europa League c'è un miglioramento nell'approccio, sono d'accordissimo con l'ascoltatore, e c'è da, secondo me, dall'anno scorso abbiamo vissuto comunque una buona Europa League. Quest'anno, ripeto, il Napoli oggi, premesso che è impossibile fare competizioni, fare pronostici su competizioni come l'Europa League e la Champions, perché chiaro, appunto il calcio è liquido, è clamorosamente liquido quando ci sono le competizioni di Coppa dove basta una partita per andare fuori, però io credo che il Napoli sia in questo momento la squadra più forte delle 48 che ci sono. Allora, dobbiamo fermarci per la borsa, naturalmente vi aspettiamo tutti, anche tutti i presenti, tutti, che sono moltissimi. No, proprio tutti. A forumagenti.it. Guardano male. Ma perché? Non lo so, però hanno delle facce. Gente con le braccia concerte, classica, sono classica pronto, posizione sono di chiusura, pronto di ostilità. A un confronto dialettico, prontissimo. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, numero verde. Bene, molto bene. Il trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta Comincia! Tutti convocati. Con 75 punti in palio, una partita importante, e vediamo se veramente noi la voglia di dare una soddisfazione ai nostri tifosi ce l'abbiamo in maniera forte, ma ci interessa solo quello. Faccio fatica a 25 partite dalla fine a considerarla qualcosa in più di una partita importante. Io faccio fatica, scusatemi, è come quando sento dire una squadra prende 3 o 4 punti, il campionato è finito, la domenica dopo pareggia e sento di campionato riaperto. Io ci ho riso per 10 anni su questa storia. Questa era Sarri naturalmente, yes. Noi invece siamo a Forum Agenti, alla vecchia Fiera Campionaria di Milano. Vecchia ma ancora, no? Vecchia ma ancora, estremamente efficiente. 800240024, come sempre il numero verde per chiamare. Federico da Firenze. Ciao, buongiorno, ciao, ciao Federico. Ciao Melissa, ciao a tutti. Melissa? Melissa. Sì. Una saluta. Ah, la salutiamo. Sì, sì, sì, è qui, adesso Alessandro non c'è, però adesso arriva, sì. Sta per arrivare. Dimmi. Io vi volevo fare una domanda, nel senso che anch'io sono d'accordo con l'ascoltatore laziale che diceva che comunque la Roma alla fine, cioè, ha fatto il possibile. È inutile rischiare in un momento del campionato come questo il ginocchio o comunque una inefficiare la prestazione della domenica per il Barcellona. Tanto col Barcellona non c'è storia. Però credo che a livello di ranking FIFA, secondo me, l'Italia come campionato dovrebbe salire, aumentando eventualmente anche i posti per la Champions. E credo potrebbe essere poi tutto un giro non è perdere 6-1. Non so se questo è il ranking. Un po' di soldi nelle casse nostre. No, no, ma guarda, però ti dico, perdere 6-1, perdere 1-0 è la stessa cosa dal punto di vista del ranking. Certo. Dal punto di vista dell'immagine, la sconfitta della Roma l'altro giorno può avere soltanto due aspetti negativi: l'immagine e l'autostima dei giocatori. Quindi il resto sono tutti dettagli, ovviamente. L'anno scorso però abbiamo scoperto che perdere 1-7 in casa col Bayern Monaco può produrre danni. È diverso, perché la Roma arrivava a quel Roma-Bayern l'anno scorso con una consapevolezza, una forza, un senso di superiorità su molte altre squadre enorme. E quella sconfitta fu di fatto l'inizio della fine della Roma, cioè sgretolò molte delle certezze psicologiche che secondo me quest'anno la Roma non ha. Cioè quest'anno secondo me questo 6-1 è molto più normale, è molto meno notizia, nel senso che il Barcellona è fortissimo, la Roma ha dei problemi e li ha fatti vedere, che questa squadra ha preso 31 gol in 18 partite, per cui voglio dire ha preso 4 gol a Leverkusen, certo. Ne ha presi 2 a Bologna l'altro giorno, quindi quasi due in casa in 10 minuti col Bayern, per cui secondo me è stata una pagina amarissima. La figuraccia rimane, sicuramente bisogna fare meglio. Le dichiarazioni di Garcia non mi sono piaciute per niente, ha detto questo, la vita continua, la Roma adesso ha la partita con l'Atalanta, una partita molto importante, no, ma poi ci sarà Roma Bate, se passi il turno col Bate hai un tesoretto. Perfetto. Di una ventina di milioni, così pari è patta. Se è così pari è patta, però voglio vedere se questa sconfitta non ha ripercussioni sul cammino della Roma a cominciare da domenica con l'Atalanta. Andrea Sorrentino da Repubblica, buongiorno. Ossoli, come va? Tutto benissimo, grazie. Hai letto bene tutti i giornali? Hai letto bene? Sì, ho letto anche il Corriere dello Sport, quindi bravo Ciccio. Bravissimo Sorrentino. Senti, vogliamo parlare della tua vita sentimentale, com'è cambiata dopo le numerose partecipazioni a Tiki-Taka? Dicevi Carlo, mi stavi chiedendo una cosa, Carlo? No, ti stavo chiedendo della tua vita sentimentale, se hai cambiato qualcosa dopo le tue partecipazioni. È cambiata. Sì, no. Cioè, è cambiata, lui è fedele, è sposato, bambina bellissima. Però è chiaro che insomma è in città. È un personaggio mediano. Io ti dico, poi noi abitiamo più o meno nella stessa zona di Milano, che è Solari, Bergognone, Savona. Sì, anche dai. Non si parla d'altro, sì, vogliamo ricordare. Anche il signor Cruciani abita lì. Fino a qualche mese fa il sex symbol della zona era il triangolo delle Bermude. Poi sono successe due cose. Cruciani ha detto che non si lava. Ha detto che non si lava, ha fatto questa battaglia per dire che una doccia a settimana è più che sufficiente. In più Sorrentino viene a Tiki Taka e queste due cose hanno cambiato gli equilibri. Adesso Sorrentino è molto avanti, ha spostato gli equilibri. Senti, ma la vita sentimentale della Roma cambierà con il 6-1 di Barcellona? Secondo me un po' sì, perché a livello interno, se non altro, non so all'esterno, ma a livello di spogliatoio e di cose, quella è una sconfitta che fa malissimo, perché secondo me ha rivelato il fatto che alla Roma certi equilibri tattici non esistono, soprattutto quando devono fare una partita difensiva, e soprattutto che non sanno reagire da grande squadra alle enormi difficoltà che il Barcellona ti propone. perché ricordiamo che il Bate Borisov ha preso 3 gol al Camp Nou e il Bayer Leverkusen 2, la Roma 6, e questo non va bene, vuol dire che è stato sbagliato tutto l'approccio alla partita, è stata sbagliata la tattica, la strategia, probabilmente anche la scelta di qualche uomo, è stata sbagliata la gestione durante la partita dalla panchina, insomma è una sconfitta pesantissima. Poi sì, il Bate, d'accordo, l'ultima partita, però è una sconfitta che secondo me alla Roma potrebbe far male, ecco, tutto qua. Poi vediamo, tra l'altro c'è un campionato che propone Napoli-Inter, vedremo se designerà in qualche modo una favorita in questo momento per lo scudetto, che non è la Roma. Sono le due squadre migliori che si affronteranno lunedì sera, no? Che si guarderanno negli occhi lunedì sera, sono le due squadre migliori, ma per mille motivi, anche se vuoi speculare, Inter e Napoli, e abbiamo avuto un'ulteriore riprova ieri sera con il Napoli che ha vinto a Bruges una partita di cui non gliene poteva fregare di meno. Sì, era proprio esatto, tra l'altro difficile, senza pubblico e così via, ancora non ha preso gol. Sono due squadre in qualche modo speculari, perché vedi che cambiando gli interpreti, e Sarri ieri sera li ha cambiati praticamente tutti, giustamente, Mancini lo fa come modus vivendi, sono due squadre che cambiando gli interpreti non cambiano il prodotto, che normalmente sono i tre punti. E sono state fin qui le due migliori, quindi è giustissimo che venga presentata come una partita da scudetto, ovviamente tra virgolette. Sarri non si deve arrabbiare, perché nessuno al mondo pensa che Napoli-Inter di lunedì sera deciderà lo scudetto, ovviamente, però ci sta che venga presentata come la partita tra le due migliori di questo campionato, e capiremo chi è un po' migliore dell'altra lunedì sera, tutto qua. Poi Sarri è un esordiente a questi grandi livelli, quindi è un po' infastidito dal cancan, però deve metterlo in conto, del resto è secondo in classifica, gioca contro la prima, e quindi la gente e i giornali si può nascondere per sempre, no? Certo, non ci si può nascondere per sempre, dico io. Non è partita scudetto, ma è partita delicata dal punto di vista degli equilibri psicologici, no, Pier? Sì, sì, è una partita. Ma è anche una sfida fra squadre completamente diverse, perché insomma c'è la squadra, secondo me, migliore fino a questo momento dal punto di vista proprio della qualità complessiva, che è il Napoli, la mia opinione personale ovviamente discutibilissima, e poi c'è la squadra che se vuoi è più sorprendente, perché non è esaltante, perché non è divertente, ma ha una clamorosa capacità di far giocare male gli avversari, questo non ci sono dubbi, e quindi sono veramente curioso di capire, perché partiranno in modo diverso, perché mentre già da oggi, o forse dall'altro ieri o da una settimana, l'Inter sa quale Napoli affronterà, perché la formazione del Napoli la conoscono tutti ormai a memoria, come negli anni 70, sì, il Napoli non saprà quale Inter si troverà di fronte, perché l'Inter ha sempre cambiato formazione nelle prime 13 di campionato, e la cambierà e farà anche la 14ª diversa al San Paolo, quindi questo è un piccolo vantaggio strategico per Mancini, che è poi il vantaggio che lui cerca in ogni partita, perché lo fa apposta a sorprendere gli allenatori avversari, che magari per tutta una settimana allenano la propria squadra immaginando di trovarsi di fronte una certa Inter, e poi il sabato e la domenica trovano tutta un'altra Inter da quella che avevano previsto, e questo poi va in cantina, prende D'Ambrosio e Nagatomo, li mette in campo, come è già successo, va in cantina, prende chi è che è sparito nell'Inter in questo momento, a parte che non gioca con Dombia perché si è fatto male. Chi c'è di desaparecido nell'Inter che vedremo magari a Napoli? L'unico che non ha mai giocato è Montoya, e mi sembrerebbe strano vedere punto su di lui, no, secondo me parte Montoya, va via. Un altro che non ha partito titolare nelle ultime tre partite è stato Brozovic, ad esempio, che potrebbe rispuntare al San Paolo, perché finora ha giocato sempre le grandi partite contro la Juve e contro la Roma. Un altro che gioca pochissimo è Palacio, quindi tutto è possibile, Mancini ovviamente sta lì a provare la formazione anti-Napoli in gran segreto, magari provandola una volta su 20 durante la settimana, come ha fatto nelle ultime settimane, e poi manda in campo la formazione che ha provato una sola volta, e però gli dà poi delle risposte immediate in campo. È stata un po' questa la forza dell'Inter fino adesso. Il banco di prova del Napoli è fondamentale per capire appunto se tutto questo turbillon di Mancini avrà dei frutti anche a Napoli nella partita che oggettivamente è la più difficile che l'Inter ha affrontato in questa stagione finora, quindi certo, sarà molto certo, interessante, molto interessante. Il pronostico secondo me è apertissimo a che se ne pensi degli equilibri o della maggior magari forza, un pareggione potrebbe non andare male a tutte e due, così a occhio e croce. Ci fermiamo un attimo per il traffico, stai con noi ancora un po', Andrea? Sì. Andrea Sorrentino da Repubblica. Non ti muovere, eh? Non ti muovere, traffico. Torniamo subito. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Tutti convocati. Tutti convocati con Pierluigi Pardo qui con me a Forum Agenti alla Fiera di Milano. Andrea Sorrentino da Repubblica collegato con noi. Stiamo guardando, spiando dal buco della serratura Napoli-Inter di lunedì sera. Abbiamo ascoltatori in linea e parliamo subito con loro insieme. Roberto Modena, buongiorno. Buongiorno. Voglio dire due cose sulla Roma. Abbiamo visto le grandi difficoltà difensive che ha avuto, ha preso molti gol, come avete detto anche voi, giocatori non all'altezza. Hanno venduto Romagnoli senza neanche valutarlo, incassando solo 25 milioni più il bonus. Solo? Mica solo. Allora, la Roma vuole fare una questione economica o anche solo vuole ottenere risultati sportivi? Perché è stato trattato senza neanche valutarlo? Però scusami, allora a questo punto è più grave, cioè se la mettiamo su questo piano, ad oggi è, se il discorso è unicamente tecnico, è più grave aver venduto Benatia a 32-33 piuttosto che aver venduto Romagnoli a 25 più bonus, nel senso che Benatia sappiamo benissimo che tipo di giocatore è, poi Romagnoli lo diventerà, io sono ottimista su Romagnoli, penso sia fortissimo, penso che sia semplicemente un problema di rodaggio e di giovane età, però insomma secondo me Romagnoli giocatore che è stato venduto benissimo. Beh, sinceramente aggiungiamo Bertolacci, no? 40, sì, sì. 25 più 20 poi, fa 45. Insomma, l'ascoltatore ha ragione, cioè c'è un po' di sabatinismo nella Roma, e mi spiego, cioè Sabatini è un talent scout come ce ne sono pochissimi al mondo, è uno che ne conosce migliaia di giocatori forti e che come tutti quelli che chiaramente conosce il calcio in maniera mostruosa qualche volta esagera pure un po', cioè esagera nel cercare il colpo d'effetto che dal punto di vista economico ha portato nelle casse della Roma in questi anni una quantità di soldi mostruosi, perché insomma da Benatia a Marchinhos i colpi che ha fatto fare al club sono clamorosi, no, sono clamorosi, esatto. Però se chiaramente il tuo obiettivo è, come dice giustamente l'ascoltatore, è vincere, quindi è di carattere strettamente tecnico, qualche volta devi anche magari rischiare un po' meno. Per esempio Rudiger in questo momento sembra un azzardo. Sembra un azzardo, no? Sembra un azzardo. È un giocatore improbabile per il quale la Roma dovrà comunque scucire 9 milioni se lo vorrà tenere. 9 millions. Roberto voleva dire qualcos'altro, però ha detto due cose, ne ha detta una. Roberto? Ah, Roberto. Non c'è. Alberto Milano, buongiorno. Sempre migliore. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo parlare delle squadre dell'Europa League, ma avete già abbondantemente parlato voi. Chiedo a Pardo la cortesia, sì. Il Napoli di oggi può assomigliare un po' al Napoli di Vinicio, quando Vinicio allenava chiaramente? Io che ho qualche anno in più e vivo a Milano, vedevo spesso le partite del Napoli allenate da Vinicio, anche se con protagonisti diversi, però mi sa tanto quello dei primi anni '80, ecco. Lei dice? Grazie. No, aspetta, mi dicono, aspetta, c'è l'ascoltatore che dice non ha vinto niente. Dice qualcuno qui dalla platea. Però io ricordo che fece un ottimo campionato allora. Ma lei si riferisce a quello di Kroll di Napoli-Perugia 0-1? A quel Napoli lì? No. Vinicio giocava. Vabbè, allora no. Amico mio, io ho qualche anno in meno ancora, grazie a Dio. Allora, già sono decrepito, ragione. A questo punto io mi arrendo. Su Vinicio calciatore faccio fatica. No, però non posso saperlo. Però insomma, mi sembra un grande Napoli. Non so dirti bene a chi ha. Per me, guarda, mi lancio in una cosa che potrebbe essere usata contro di me. Assomiglia assomiglia alla Juve degli ultimi anni, cioè assomiglia secondo me alla squadra che potrebbe andarsene in fuga, ecco, in questo secondo me assomiglia, perché è una squadra forte. Qui mi dicono di no, chi è che va in fuga? Dice di no, l'Inter purtroppo no, nessuno va in fuga, la Juve. Dicono, la Juve dicono purtroppo non la Juve, no, dicono. Io penso che ma magari la Juve rientra, ma ragazzi, secondo me il Napoli aveva un punto debole che è la difesa, adesso non ce l'ha più. Di che dobbiamo parlare? Cioè, nell'ultima 8 partite ha subito l'attacco, un gol, l'attacco più forte del campionato intero. Andrea Sorrentino, che dici? Qui servirebbe un microfono. No, dicevo, secondo me l'ascoltatore si riferiva al Napoli allenato da Vinicio a metà anni 70. Non lo so, diceva quando giocava Vinicio. Di che anno sei tu, Sorri? 69. Giovane, no, quando giocava Vinicio non ci arrivavo. 69. No, giovane Andrea. Beh, giovane, insomma. Sì. C'ha 46 anni, punto, giovanissimo. Ah, vabbè, dobbiamo tirarci tutto. Sì, giovanissimo. Appena 46 anni, insomma, diciamo nella prima adolescenza. Cioè. Dicevi, Andrea? Non lo so, mi sono perso. No, quello era un Napoli che giocava benissimo e poi prese un famoso 6-2 in casa della Juve nel 75 e finì tutto. Però era un Napoli che rimase nella memoria perché giocava un calcio molto offensivo e molto moderno. Infatti Vinicio è stato uno dei pochi grandi innovatori del calcio italiano. Penso che si riferisse a quello l'ascoltatore, ma così era un inciso, andate avanti, così non sì, no, volevo chiederti di... per inciso, che bel sorriso, chi canta? Sì, buona. Chi canta? Non lo so, che lui. Adesso che sei qui davanti a me, non farmi queste domande, De Gregori, che interpreta Bob Dylan. No, ma okay, scusate, ma se non, come dice Mourinho, chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio. Infatti, pure De Gregori e Bob Dylan sono molto importanti. Andrea, leggo che Melo invece già ringhia, picchierò Higuain perché come Balotelli gli dai due stangate e non gioca più, eccetera eccetera. L'Inter a me, il Napoli a me non sembra facilmente impressionabile, posso dire. No, ma sono chiacchiere e sono titoli di giornale che ci stanno in una vigilia. Tra l'altro Melo è un uomo simpaticissimo e pieno di cose interessanti quando li intervisti, quindi ogni tanto molla anche qualche fendente di questo tipo, ma lo dice col sorriso, perché poi è un vecchio mestierante anche lui. Secondo me il Napoli non si farà affatto impressionare e comunque il Napoli, che gioca bene, gioca benissimo, gioca meglio di tutti, dipende molto da Higuain e da Insigne, nel senso che se non segnano loro poi è difficile che arrivino gol da altri. Quindi secondo me, se l'Inter fa la partita per provare a bloccare Higuain e Insigne, non sbaglia. Poi ci sarà tutto il resto, però comunque partire da lì sarà secondo me la base della strategia del Mancio, in una partita in cui l'Inter è leggermente sfavorita, ma non troppo secondo me. Attenti a mare chiaro, Hamsik, che sta tornando su altissimi livelli, fino ad ora ha distillato scintille di assist, di palloni gol eccetera, ma io lo aspetto presto al gol, Hamsik, che comunque mi sembra il giocatore che avevamo perso qualche tempo fa. In questi anni soltanto una volta non è andato in doppia cifra, se guardiamo tutte le competizioni, quindi insomma è chiaro che Hamsik è una delle soluzioni. Il Napoli è tornato a giocare dove vuole. Beh, comunque io sono curioso, perché l'Inter di oggi è una realtà incontrovertibile, e questa capacità di far giocare male gli avversari non è un dettaglio, è una capacità enorme che vale altrettanto della spettacolarità del Napoli. Quindi da questo punto di vista è veramente una lotta fra due stili diversi, ma fra due squadre che in questo momento si equivalgono. La classifica dice addirittura che l'Inter è davanti, lo spettacolo dice che il Napoli è davanti, e insomma sarà un bello spariglio secondo me quello di lunedì. Assolutamente. Andrea, grazie. Grazie Andrea Sorrentino di Repubblica. Ciao. Per inciso che bel sorriso. Matteo ci scrive via SMS di dire che la Juve è ancora la squadra italiana più forte. Fatto, grazie Matteo. Beh, c'è un mio, 8, adesso 0, non voglio autocitarmi, c'è un pezzo 0, 0, 0, di oggi sul Corriere dello Sport, appunto, in cui tu scrivi che secondo me non è la squadra più forte, però è una squadra che tornerà. Però è una squadra che in Europa sta dimostrando, magari non ha la continuità. Questa poi, fra l'altro, è un tipo di dinamica abbastanza complessa. comune di tutta una serie di squadre che magari non riescono più nelle 38 partite ad avere quella stessa concentrazione e quella stessa intensità, ma che nelle grandi occasioni è ancora pronta. Sì, e la Juve, ecco, la Juve mi sembra da questo punto di vista, il Milan che vinse la Champions nel 2007 era una squadra che faticava tantissimo in campionato. Questa va meglio, questa Juve va meglio di quel Milan, ma il concetto è lo stesso: grande personalità e capacità di affrontare le grandi. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Rieccici, Forum Agenti, Fiera di Milano. Oggi, siamo qui, oggi. Che oggi mi hai chiamato, che possiamo fare oggi? Che siamo a Forum Agenti, io ti ho detto un agente, no? Certo, perché anche quelli sono agenti. Come no? Grande idea, adesso lo chiamiamo un agente di calciatori, naturalmente. Chi vuol fare l'agente di calciatori tra i presenti? C'è qualcuno che vuol fare l'agente di calciatori? No, nessuno. Mestiere improbo. Raffaele Napoli, buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sente? Sì, la sento. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, la seguo da molti anni e niente, volevo sapere una cosa. Ritorno sulla partita da incubo di Barcellona. Io sono un tifoso giallorosso e logicamente sono rimasto veramente, non lo so, sconcertato dalla prestazione della squadra. Però io sono d'accordo con quello che ha detto Garcia, sì, alla fine il Barcellona è la squadra più forte del mondo, quindi c'è modo e modo di perdere. Però secondo lei perché Garcia si ostina a far giocare Rudiger e non far giocare Castan, visto che lo porta in panchina, quindi può tranquillamente entrare? E quale potrebbe essere? Io non penso che questa sconfitta abbia conseguenze sul campionato, e già con l'Atalanta diciamo si dovrebbe vincere tranquillamente. Volevo sapere, la ringrazio e la saluto. A lei Raffaele, questo lo scopriremo vivendo, come diceva il poeta. Sì. Non possiamo saperlo adesso. Castan probabilmente non gioca perché non è ancora totalmente recuperato. Secondo me non ha fatto bene Garcia nell'ennesimo tentativo di autosoluzione. Su questo non ci sono dubbi. Pier, su Castan, di bravi allenatori, di grandissimi allenatori, tutti più grandi, ogni tanto escono e dicono: ok, questa partita l'abbiamo sbagliata, mi prendo tutte le responsabilità. Io guarda, qualche giorno fa ho citato proprio l'esempio, anche perché era lo stesso stadio, la stessa dinamica di partita, l'esempio di Conte dopo Italia-Romania, no? Stesso stadio Bologna, a distanza di qualche giorno, per carità Garzia aveva il problema del terreno che è indiscutibile, però insomma stesso tipo di situazione, 0-1, 1-1, 2-1, partita che sembra in controllo, 2-2. Conte è uscito insultando la squadra e l'atteggiamento della squadra, Garzia è uscito praticamente parlando solo di calcio, in qualche modo assolvendo la prestazione dei suoi. Questo in qualche modo secondo me mi insospettisce, mi dà la sensazione che non sia l'atteggiamento giusto. Su Castan, beh, insomma, qui bisogna fidarsi. Se Castan, certo, che certamente è un giocatore che ha dimostrato 2 anni fa e 3 anni fa di essere all'altezza, non viene schierato e rimane in panchina, perché evidentemente non è ancora pronto. Ma da questo punto di vista può essere stato un po' un azzardo. Ecco, non mi ricordo chi, Merichini ieri parlava di Yang Ambiwa. Io penso che la cessione di Yang Ambiwa sia stato un errore. Telese. La cessione di Yang Ambiwa, però sai, alla fine forse era meglio di Rudiger, quantomeno era più pronto, era meno, faceva meno errori, no? Lo conoscevi meglio, aveva un anno di campionato italiano alle spalle. Ecco, quando ti parlo di un certo sabatinismo, partendo dal presupposto che stimo Sabatini e lo considero appunto uno dei più grandi talent scout al mondo, penso che certe volte la Roma forse abbia esagerato negli ultimi anni nel comprare e vendere, cercare il colpo ad effetto piuttosto che consolidare. Qui forse, piuttosto che andare a cercare un giocatore che può essere riscattato per 9 milioni ma che al momento non mi sembra ancora pronto, poteva essere sano tenersi Yang Ambiwa. Claudio Roma. Salve. Volevo dire un paio di cose per quanto riguarda, allora, io sono un tifoso romanista, diciamo che anche critico quando diciamo sbaglia, come ha sbagliato nell'approccio della partita con il Barcellona, però vorrei dire che diciamo mi trovo d'accordo con tutto quello che dice Pardo, ma mi trovo praticamente, come si dice, faccio gli scongiuri ogni volta che parla lei, quindi per il semplice motivo che non credo diciamo che lei si aspetti che la Roma abbia gli stessi problemi di quando perse con il Bayern, no? io faccio gli scongiuri perché non credo. No, ma fa bene. Non penso neanche io, però fa gli scongiuri. Però allo stesso modo ti dico che se questa squadra non cresce, cioè io ti ripeto, non temo più di tanto l'aspetto psicologico, però penso che la partita con Barcellona sia un ulteriore indizio molto pesante che questa squadra non è ancora pronta, e secondo me se non fa un salto di qualità è difficile che vinca qualcosa, lo dico proprio sinceramente, qualcosa che non sia, che ne so, la Coppa Italia, nel senso che per essere da scudetto la Roma deve migliorare dal punto di vista difensivo. No, secondo me è ancora in condizione, poi non è fortunata, fuori Gervinho e Salah in questo momento, però vincere qualcosa con quei numeri diventa difficilissimo, con quei numeri, certo, soprattutto a Bologna, una partita così la devi vincere, cioè, poi siamo d'accordo tutti che non si doveva giocare e che probabilmente su un terreno asciutto la Roma avrebbe vinto, come ha vinto il giorno dopo il Napoli a Verona. Però a quel punto della gara non... E allora una volta ritradisce Torosidis, una volta ritradisce Szczęsny, una volta ritradisce Rudiger, alla fine sono tanti, errori. Sono tanti, e poi soprattutto al di là degli errori individuali dei singoli interpreti, che sono tantissimi, sono eccessivi, c'è anche una fase difensiva, come dicono quelli bravi, come potrebbero spiegarci gli allenatori, che non è convincente. Non funziona. Andrea D'Amico, lo stavamo aspettando. Eccolo, principe dei procuratori, degli agenti. Ciao Andrea. Allora, adesso parliamo di calcio, ma siccome mi chiede di dove sta. Mi sembra di essere. Dove sei? Orlando, via che io sono sulla Piazza Rossa adesso a Mosca, con meno 15. Sei a Mosca? Per parlare con voi sono anche uscito. Non sei a Custoza? No, Red Square. Allora, da Red Square, sono quasi emozionato per questo collegamento con la Piazza Rossa. Qui ci sono centinaia di agenti. Vuoi dare un conto? Tu sei al di là del settore merceologico, ovviamente, che è molto particolare e anche molto remunerativo, no? Merceologico. Vuoi dare un consiglio di vendita agli agenti? Cioè, poi alla fine della trattativa, la differenza. Dai un consiglio tecnico, qua è pieno di gente che ti ascolta, che pende dalle tue labbra. Guarda, innanzitutto bisogna credere che il prodotto che stai vendendo sia il migliore al mondo per la persona a cui lo stai proponendo. Se tu non credi in questo non riesci a vendere niente. Il secondo must che io ho sempre cercato di applicare nel mio lavoro è che hai una, massimo due occasioni di poter piazzare il tuo prodotto. Se fallisci è inutile che insisti, quindi bisogna saper cogliere l'attimo, e soprattutto la cosa importante è cogliere l'esigenza latente che c'è nel mercato del tuo cliente, nell'esigenza che ha, perché una volta che diventa manifesta è già troppo tardi, perché vai in concorrenza con tante altre persone. Quindi anticipare le mosse, valorizzare. Ma a Mosca che stai facendo? Un import-export di vodka, oppure c'hai facciamo i cazzi tuoi, sei lì per crescito? No, crescito è San Pietroburgo. E a Mosca ci si incontra a metà gente tratto. Pensa che la Russia sia piccola, capito? No, cioè, esci la Piazza Rossa, no, c'è ma il bivio, ci si incontra a metà strada, magari, che ne so io. Anche qui dipende con che mezzo ti muovi, è chiaro. Relativo. Comunque no, ho visto Salvatore Bocchetti che sta molto bene, certo. Reduce dalla vittoria contro Krasnodar, lo Spartak sta andando bene, sta già progettando la prossima campagna trasferimenti. Poi mi sono visto con un paio di altre persone, però adesso c'è un po' un problema qui, che stanno riposizionando tutti i ritiri invernali, che di solito venivano fatti in Turchia, e adesso hanno cancellato 40 ritiri, quindi stanno cercando di... Che clima c'è adesso? Usciamo un attimo dal calcio, che clima c'è? Nel senso che siamo chiaramente con una vigilanza particolare qui in Italia, figuriamoci... Pesante. Guarda, ti dico solo che qui, entrando oggi a Ritz-Carlton della Piazza Rossa o al Four Seasons, c'era tutto bloccato e non entravi se non avevi un permesso speciale, c'è tutto molto sotto pressione, e soprattutto mi dicono che la comunità turca, che qui sta comunque facendo affari, sta risentendo molto di quella che è la situazione geopolitica militare che si è creata a causa di questo incidente in Turchia, e quindi stanno un po' facendo chiudere tante attività, ma d'altra parte anche noi italiani con l'import-export abbiamo subito conseguenze, e quindi parlavo con tanti amici italiani che lavoravano nel commercio, che dall'embargo dell'Unione Europea hanno avuto conseguenze negative. È facilmente immaginabile, ma io credo che comincia a sentirsi anche l'effetto della crisi russa in generale, perché questo sarà uno dei, lo deve dire Barisoni, però sarà uno dei grandi problemi dei prossimi anni. Il governo ha ottenuto comunque, intanto secondo me ha ottenuto che i ricchi russi, gli oligarchi, investissero di più all'interno della nazione, quindi questo ha dato loro un grande consenso popolare. Non a caso i politici che sono molto attenti anche a questo tipo di gradimento, adesso mai come ora hanno un gradimento alle stelle. È chiaro che quello che non si poteva fare, secondo me, più come magari succedeva prima con il comunismo sovietico, che impedivano alle persone di uscire perché non c'era libertà, ora che non si può più fare questo, magari con la svalutazione del rublo rimangono in patria, perché andare fuori diventa troppo caro, quindi certo. L'effetto è il medesimo. Certo. Ascolta, dimmi la verità, ti aspetti che Giovinco, cioè uno dei tuoi più noti rappresentati, vada all'Europeo? E ti chiedo anche, lui si aspetta di andare all'Europeo? Ma guarda, andare agli europei, come in ogni manifestazione nazionale, ci deve andare chi è più in forma in quel momento lì, quindi mancano ancora tanti mesi. È chiaro che se lui arriva in uno stato di forma come quello con cui ha chiuso l'MLS, Conte conosce benissimo le sue caratteristiche, e non ci sono secondo me giocatori omologhi a lui nella nazionale italiana, quindi non per anticipare scelte che non mi competono, ma io sono tranquillo. Lui deve continuare a far bene come ha fatto nell'ultima stagione. Adesso il 2 di dicembre riceverà il premio come miglior giocatore della Lega Americana, e quindi penso che se continua così sarà un epilogo scottante. Se la può giocare. Ha funzionato, tremo per il freddo. No, va bene, però per farti proprio soffrire ulteriormente, ci dici come sono le commissioni degli agenti del calcio? C'è una regola? Le commissioni? Normalmente c'è un tarifario che va fino al massimo del 5% sull'lordo, ma poi ci si regola come giusto che sia in ogni libero mercato, non ci trovo nulla, è commercio, non è religione, per cui una volta che uno si comporta in maniera fair, per così dire, corretta con il proprio mercato, con i propri interlocutori, poi è giusto che ci sia la libertà negoziale. Guarda, molto spesso si dialoga sul nome da dare a una professione piuttosto che un'altra. Il problema in questi momenti è averlo il lavoro, inventarselo. Certo. E quindi ritengo assolutamente legittimo che uno si gestisca. Ma tu consiglieresti a un ragazzo di 25 anni, neolaureato, di cercare di fare questa attività? E come è fatta la strada per diventare agente? C'è un esame? Non è facile, adesso non è facile. Una volta magari, quando ho iniziato io 26 anni fa, potevi anche iniziare un po' alla volta. Adesso non è facile. Il consiglio migliore che possa dare è soprattutto avere una competenza che deriva dalla cultura personale, dagli studi, conoscere le lingue e comunque la materia, e poi cercare di affiancare uno studio già affermato che ti permetta di spendere comunque un nome che ti dà subito una certa penetrazione nel mercato. Ma comunque c'è un esame per accedere all'albo professionale, no Andrea? Prima c'era, adesso l'hanno tolto introducendo una deregulation che lascia liberi un po' tutti. E siamo in dialettica con la federazione, noi come assoagenti, perché comunque chiedevamo di poter gestire noi la nostra professione, certo, in quanto liberi professionisti, e di qualificare noi quelli che erano i criteri per entrare nella professione. Di fatto, sai, c'è una componente fiduciaria nel rapporto cliente assistito con il suo agente, certo, che a mio avviso è giusto che ogni calciatore avere d'amico sulla coscienza. meno 15, no, no, dicevo, no, Pardo, sì, vorrei avere Andrea da sulla coscienza, sì, no, ma resisca al fisico, razza veneta, no, di Custoza, ecco, da Vigiane di Bianco di Custoza che lo fortifica. No, ma invece gli intermediari, c'è una differenza, cioè ci sono agenti che sono più intermediari, come funziona? Sì, ci sono, allora normalmente chi conosce l'ambiente ma magari non rappresenta molti giocatori, funge da intermediario tra una società e l'altra. Ma servono? Questa domanda un po' provocatoria, cioè se il Milan deve fare un affare con Real Madrid, serve? Ma forse in quel caso lì no, dipende sempre da che tipo di accessibilità si ha al prodotto finale, nel senso probabilmente no, ma sai, ormai il calcio è diventato così un globale che magari non può non servire per mettere in contatto Real Madrid e Milan, ma può servire per mettere in contatto, non so, una squadra russa e il Milan, piuttosto che una squadra araba, certo, e l'Atalanta, certo, ormai certo, il mercato certo, è diventato così largo e diffuso che perché no, è chiaro, certo, che no, Andrea, volevo chiederti, sì, dimmi. No, io un'ultima cosa, vado io proprio trippato, sono ma invece scusami, il contratto che un agente firma con un giocatore, perché sai che poi ci sono quelli che hanno i parenti che li rappresentano, che garanzie dà l'agente? Cioè si firma un contratto per quanti anni? Ci sono delle penali? Dipende quello che c'è scritto io nel contratto, del contratto. Cioè, però è molto deregulated il mercato, cioè. No, ma secondo me è giusto che sia libera negoziazione, cioè i parametri del contratto è giusto che li stabiliscono le parti, certo, ci sono degli, certo, elementi essenziali che sono fondamentali, altri che sono la durata, il compenso, puoi conferire un mandato anche solo per stipulare un singolo contratto, come pure puoi conferire mandato a termine fino a 2 anni, puoi prevedere una clausola penale in caso di risoluzione, oppure puoi anche prevedere che non possa essere risolto. Insomma, cioè, libera contrattazione tra le parti secondo le regole di mercato, normale, giustamente. È la vita, ognuno possa regolare i propri rapporti. Chiaro. Guarda Andrea, se c'è una cosa che a me fa diventare matto è sono i discorsi su quanto guadagnano i calciatori con quello che guadagnano, sono le leggi del mercato, questo per, esatto, come la vedo io, quindi sul libero mercato si fanno le trattative, ci si fa rappresentare e si guadagna secondo valori di mercato, senza che nessuno regala niente. Andrea, grazie. Questo è vero, guarda, io dico sempre, vi lascio con questa frase, scriveremo sul molo di Genova in modo che chi arriva la veda scolpita, sì, che tutti noi cantiamo, ma se cantassimo come Pavarotti probabilmente saremmo tutti, certo, molto più ricchi, o no? Certo. O se io fossi bello come Brad Pitt farei film a Hollywood. Comunque insomma, diciamo che dovendo scegliere un agente, io Genta lo sai, no? Ecco. No, beh, io ho già firmato la proposta. Portaci in Canada. Che possiamo io fare già, in Canada? Quello che, ce lo dice lui, ma io l'ho già firmata a Vinitaly, la procura ad Amico davanti a testimoni. Però solo mi pare che non si muova niente. No, però si entra in Gazzetta, sei entrato in Gazzetta TV, signor Genta. Io sto aspettando. Signor Genta. Sto aspettando proposte, Andrea, ovunque. Ovunque. Tra l'altro in Russia si parla molto di Genta, vero? Si parla molto. Sì, devo dire che. Ma poi sai quello. Non voglio sapere chi è. Tu sai che. E quando io dico Genta, qua e là, tutti dicono il grande disegnatore di orologi, tu porti un cognome pesantissimo, il genio degli orologi. Il nostro amico Sandro Veronesi, giornalista, scrittore, sul profilo Twitter ha una roba tipo, per giusto precisare che non sono il proprietario di Calzedoni, adesso mi ha fatto pubblicità, però è un omonimo di Veronesi e quindi insomma ognuno è esatto. Grazie Andrea. Io non sono, fra l'altro, anche se il fisico è uguale, non sono il calciatore dell'Olimpiakos, ve lo dico. Non sei il giocatore. No, anche se il fisico è identico e anche, devo dire, il senso del gol, molto simile. Senti, hai sentito Stramaccioni invece, proprio uno dei nostri. Beh, va al Panathinaikos, prima partita, bim bom bam. partita sospesa e Panathinaikos che minaccia di ritirarsi dal campionato greco. Poveretto, va bene, una strama. Ha imbattuto, al momento è imbattuto. Al momento è imbattuto, il resto lo scopriremo. Vabbè, dobbiamo quasi salutarci. Sì. Abbiamo una telefonata, un paio di telefonate, dei messaggi, no, qualcosa. Abbiamo ancora. Giovanni, com'è la situazione? Giovanni ha il telefono preoccupato. Invece c'hai De Luca dall'altra parte. No, abbiamo ancora. Ancora De Luca. Che dici? De Luca ormai a Napoli è una celebrità, eh? Ieri sera è stato ospite di una popolare televisione locale, ma insomma, con degli ascolti pazzeschi. E quindi oggi in città non si parlava d'altro. Sì, sì, è un altro che adesso, insomma, fino a ieri era un fidanzato fedele, capito? Oggi. Vuole l'emancipazione. Sta lì, con la testa. Mi sento tanto Ferrero. Abbiamo creato un mostro. Abbiamo creato un mostro. Ma. Ragazzi, vi salutiamo qui da Forum Agenti. Torneremo presto. Ci hanno promesso che ci portano anche in trasferta. Vedremo dove. Sì, cioè, hai estorto un invito a Verona. Ti prego, porta. Adesso lo dichiariamo pubblicamente. Quindi, se non ci portano, insomma, poi. Vedremo quali ma saranno le conseguenze. Per quel periodo lì già sarai. Insomma, era di Burrussa. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi. Ci sentiamo domenica 17-19, poi ovviamente lunedì tutti convocati. Io ringrazio tutti, da Giorgio De Luca, Giovanni Melchiori, Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato, todo il mondo. Ciao. Arrivederci ragazzi. Ciao.